Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24 e ben ritrovata Ivana Di Martino. Ciao, buongiorno a tutti. E finalmente insieme in studio, possiamo dirlo. Sì, sì, sono molto emozionata. È passato un po' di tempo. Allora, rieccoci qui come ogni domenica per parlare di corsa, di running e di atletica, e oggi lo facciamo con un collezionista, diciamo così, titoli mondiali di corsa in montagna, Marco De Gasperi, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Come stai, Marco? Bene, grazie, tutto a posto, diciamo che sì, il lavoro assorbe molta parte del mio tempo, però comunque riesco ancora a trovare il tempo per potermi dedicare ai miei allenamenti e quindi sfogare così la mia voglia di correre. Bene, bene, allora andiamo subito al sodo, perché in libreria c'è un libro che parla di te, Dio abita all'ultimo piano, lo skyrunning secondo Marco De Gasperi, scritto da Roberta Orsenigo, edito da Gribaudo. Sembra impossibile, ma siete riusciti a condensare una carriera infinita in 144 pagine. Sì, diciamo che è un riassunto abbastanza approssimativo di tutto ciò e comunque abbiamo cercato di condensare quantomeno i momenti salienti della mia carriera. Roberta è stata molto brava ad ascoltare e soprattutto aver molta pazienza, perché appunto non sono sempre molto puntuale anche nel farmi trovare per raccogliere queste testimonianze, quindi diciamo che è stato un lavoro improbo da parte sua, ma credo che il risultato poi sia stato apprezzabile. Corri ancora troppo forte forse? In realtà quando c'è da prendere un appuntamento è difficile che arrivi così puntuale e così veloce, quindi da quel punto di vista sono un pessimo. Beh, noi ce l'abbiamo fatta. Bene, siamo molto contenti di averti qui. Allora, Marco, il titolo del libro parla di un ultimo piano irraggiungibile, perché Dio abita all'ultimo piano, e tu a che piano sei arrivato? No, un piano molto basso, io anche per così mia caratteristica tendo sempre comunque a sminuire anche tutto quello che faccio, ma soprattutto non cerco di dare troppa aspettativa anche ai miei obiettivi a cui cerco sempre di puntare. È ovvio che poi comunque una piccola dose di soddisfazione sia garantita anche dal fatto di raggiungere questi obiettivi, però dall'altra parte subito dopo cerco di pormi nuovi appuntamenti e quindi do meno importanza a quello che è già stato fatto. Marco, ma la tua storia di atleta è lunghissima, quando è che hai iniziato a correre? Allora, ho iniziato a correre molto giovane, ho cercato di seguire un po' le orme di mio papà, che era un atleta, è stato un atleta negli anni 60-70, quindi una persona che ha cercato di coinvolgere anche a sua volta dei giovani, portandoli a scoprire questa disciplina, non solo della corsa ma anche dello sci alpinismo e comunque dello sport outdoor in generale. Diciamo che facevo un altro sport in realtà, ho iniziato da piccolino a praticare lo sci nordico a Bormio, nel paese in cui sono nato, e poi pian piano, diciamo, proprio anche per il fatto di aver poi frequentato delle scuole un po' più lontano dal mio paese dove non c'era la neve, non era più possibile proseguire su questa disciplina, che tra l'altro non mi aveva neanche mai dato nessun tipo di così di risultato, e quindi non solo per quello, però era sicuramente una cosa che mi aveva un po' appassionato meno rispetto alla corsa, che invece è stata sempre un grande amore. Tu sei di Bormio, dicevi, e cosa ti insegna? Cosa ti ha insegnato la vita in montagna? Beh, allora, diciamo che io ho vissuto molto anche una vita spartana quando ero giovane, soprattutto nella baita di montagna dei miei nonni durante le estati, quando aiutavo anche appunto il nonno a portare a pascolo le mucche, quindi mi è stata insegnata molto la vita terra a terra, ma non solo proprio così nel senso lato, ma proprio anche quello di vivere un'esperienza tra virgolette anche un po' nei campi, un'esperienza lavorativa, ma soprattutto con le mucche fino alle quote più elevate per riuscire così a sfruttare quelle che erano così le situazioni del Maggengo, dell'Alpe e cose che mi hanno sempre comunque fatto un po' vedere le montagne dal basso verso l'alto e poi comunque sognare di un giorno di poterle raggiungere anche con quello spirito agonistico che ho sempre avuto. Quindi tu facevi parte di una squadra di atletica appunto lì a Bormio e facevi solo salite, perché insomma la conosciamo tutti, anche solo per arrivare allo Stelvio c'è tutto salita. Sì, è normale che appunto quando io ho iniziato a correre in realtà lo sport della corsa in montagna era molto la corsa in montagna tradizionale, sto parlando non il trail running sì. Che siamo abituati oggi a conoscere o lo sky running, ma era una disciplina tra l'altro anche con una bella tradizione a livello giovanile, quindi l'Atletica Altavaltellina, che è stata la mia prima società, è stata molto brava anche a reclutare tanti ragazzi che d'inverno sciavano, a portarli ad amare questo sport. Logico che nelle valli, nelle nostre valli Altellina, ma così come tutto l'arco alpino, la corsa in montagna sia pratica molto diffusa per l'atletica leggera, in quanto magari non c'erano strutture o comunque non ci sono magari ancora strutture adeguate per consentire altre tipologie di sport, come per esempio le discipline atletica più tecniche come i lanci, i salti eccetera eccetera, quindi la corsa in montagna viene veramente molto facile proprio per la palestra naturale che si presenta davanti ad ogni ragazzo. E ultimamente appunto come ben sapete sono stata a Bormio per un periodo e facevo questi sentieri, no? Anche un po' asfaltati, un po' no, e a un certo punto ho incontrato un gruppo di ragazzi e ragazze, ma tantissimi erano, no? che andavano anche molto forte, che correvano. Mi sono quasi emozionata perché mi sono rivista un po' da bambina, che quando l'atletica comunque era insomma un po' uno sport molto praticato, e veramente è stato bello vedere così tanti giovani correre. Sì, allora io credo che tu abbia incontrato i ragazzi del gruppo dello scialpinismo. È un team molto nutrito di ragazzi di tutte le età, sì. E praticano d'inverno appunto questa disciplina dello ski alp. D'estate si allenano in gruppo e comunque anche durante la stagione di preparazione a terra con ritrovi almeno un paio di volte alla settimana, dove si va a camminare con i bastoni, a corricchiare, e c'è veramente un grande entusiasmo in questo sport, che quando io ero giovane non era praticato dai ragazzi. C'erano delle regole che volevano solo la partecipazione di atleti dai 18 anni in su, mentre ora si parte dalle categorie giovanili, quindi dai 10 anni fino appunto poi arrivare alla maggiore età. Per cui credo che questa disciplina si sia aperta, si stia espandendo anche abbastanza bene, non solo dal lato agonistico ma anche da quello amatoriale su tutto l'arco alpino. E tu, Marco, hai iniziato a correre forte diciamo dagli anni 90. Che anni erano quelli per la corsa in montagna, gli anni tra gli anni 90 e gli anni 2000? Allora, la corsa in montagna, come ripeto, aveva una grandissima tradizione e anche in quegli anni viveva di un discreto interesse, soprattutto la corsa in montagna classica appunto, ma anche se non c'erano i social, non c'era sicuramente tutto quello che cui siamo abituati oggi a vedere, le immagini di oggi, però diciamo che riscuoteva un buon successo proprio perché esistevano poche gare e quelle poche erano comunque dominate soprattutto a livello internazionale da atleti italiani. La scuola della corsa in montagna italiana è di lunghissima data, diciamo che la prima Coppa del Mondo è stata fatta nel 1985 in Italia, San Vigilio di Marebbe, e vide l'Italia sin da quel punto dominare la scena in un crescendo anche di partecipazione dei paesi poi negli anni successivi. Fino al 2005 l'Italia ha sempre vinto la Coppa del Mondo di corsa in montagna, poi nel 2005 con l'avvento anche di nazionalità straniere dell'Africa, come per esempio l'Eritrea e l'Uganda, poi si è dovuto cominciare a fare i conti anche con degli atleti di altissimo livello, però il fatto comunque di avere una grande tradizione a livello internazionale accresceva comunque la popolarità di questo sport, che appunto fino all'avvento del trail running ha avuto un buon interesse. Ecco, appunto, com'è cambiato adesso invece? Adesso diciamo che c'è un movimento molto molto più grande, stiamo parlando comunque di un movimento che per la corsa outdoor abbraccia milioni di persone in tutto il mondo, quindi il fermento è grande, soprattutto c'è un'espansione crescente che porta anche i brand a voler investire su questa disciplina, che in questo momento ha cambiato un po' i connotati, si sta parlando anche di distanze che una volta sembravano fantascientifiche. Pensiamo che il Tour de Jeanne, che è una delle gare più conosciute al mondo per quanto riguarda il trail, è lunga e si svolge in Val d'Aosta, è lunga 330 km e supera i 24.000 metri di dislivello, quindi gare di endurance che sembrano adatte solo a super uomini, in realtà vengono fatte anche da atleti amatori che sognano di poter vivere un'esperienza di questo genere. Sì, abbiamo pensato anche pensa un po' io e Silvio di farla, quindi insomma io no. Ma però guarda, te lo consiglio, io sto a casa. Se lo dici tu. Allora, parliamo un po' di te, Marco, perché ricordo, vado un po' a memoria, 6 titoli mondiali di corse in montagna, 11 coppe del mondo a squadre, titoli europei, titolo italiano, per cui insomma lontano da quell'ultimo piano sicuramente, ma godi di una vista migliore della mia insomma sul panorama. La tua storia di atleta, abbiamo raccontato, è lunghissima, però la voglia di correre non si spegne mai, no? Perché abbiamo visto un tuo ultimo record ultimamente. Sì, ecco, diciamo che ho ancora così quella volontà di provare a mettermi in gioco, perché anche se ho 43 anni ormai diciamo che mi sono tolto le mie soddisfazioni, o comunque anche per un dovere di carta d'identità non dovrei essere più così assiduo nel volere a tutti i costi raggiungere un traguardo, però mi sento ancora appassionato, molto appassionato di questa disciplina, quindi quotidianamente cerco di ritagliarmi il mio tempo nei vari impegni per poter essere comunque ancora competitivo, e cerco di vivere anche un po' di ricordi su quello che ho fatto negli anni per poter buttare ancora di là il cuore verso oltre l'ostacolo. Beh, insomma, ecco, è solo 43 anni, sei giovanissimo, puoi fare ancora un sacco di cose. Guarda Ivana, il problema è che non è tanto l'età anagrafica, ma quella diciamo biologica che mi si vede anche ormai frequentatore di terreni di gara e comunque di tanti allenamenti da oltre 30 anni, quindi soprattutto ho sfruttato al massimo il mio corpo, la mia mente, e a volte mettermi lì a fare determinati allenamenti molto molto duri, come quelli per esempio non tanto di lunga distanza, ma quanto più quelli intensi, è sempre più difficile. Uno che ha vinto tanto è tutto, diciamo, ha corso anche ovunque, ha qualche rimpianto? Sì, beh, di rimpianti ce ne sono comunque sempre, sono, come dicevo prima, un po' troppo severo anche con me stesso forse, però certamente a volte cerco di vedere più il bicchiere mezzo vuoto che quello mezzo pieno, proprio perché credo che si possa sempre migliorare. Io nella mia carriera, per esempio, non sono mai stato in grado di terminare una maratona in piano, anzi l'ho preparata molte volte e sempre mi sono infortunato prima dell'evento oppure durante l'evento stesso. Quindi questo è un grande rammarico, proprio perché il mio valore atletico non lo riconosco esattamente se non ho un parametro anche su quello che poteva valere in una distanza che ormai, voglio dire, è molto molto frequentata dai tempi antichi, e quindi ora sapere quanto si fa sulla maratona può significare anche il voler dare un valore all'atleta. Riparametrare anche chi corre in montagna, perché una volta veniamo un po' snobbati, no, gli atleti della montagna da chi faceva magari la strada o la pista. Assolutamente, assolutamente sì. Abbiamo tuttavia degli esempi di corridori in montagna che hanno vinto o hanno partecipato a gare anche di maratona, per esempio come Olimpiadi, come per esempio il caso di Davide Milesi, di Severino Bernardini, di atleti anche internazionali come Jonathan Wyatt, che hanno magari qualcuno non ha neanche vinto un campionato mondiale di corsa in montagna, eppure era una maratoneta di assoluto valore internazionale. Però io ho letto, Marco, forse magari mi sbaglio, che non hai preparata poi sempre, cioè, bene la maratona, eri un po' indisciplinato. Ma no, diciamo che non è questo il problema. Il fatto è che facendo l'attività della corsa in montagna durante l'estate la maratona autunnale era praticamente preclusa proprio perché non si poteva conciliare la preparazione della corsa in montagna con quella della maratona. Facendola durante l'inverno per affrontare una maratona durante la primavera, era anche quello un affare abbastanza complicato, proprio perché la forte concentrazione di gare durante quasi tutta la parte dell'anno faceva sì che non si potesse, diciamo, conciliare troppo anche un tempo di preparazione per la maratona. Ci ho provato e anche se non sono un tipo molto disciplinato dal punto di vista della mia vita personale, ma anche quella proprio organizzativamente parlando, forse lì in quel momento, proprio perché comunque quando mi alleno o comunque quando mi allenavo ero abbastanza metodico e seguivo molto bene anche le indicazioni che il mio corpo mi dava, non sono mai riuscito ad essere performante al 100%. Ecco, uno dei tuoi avversari più ostici, diciamo, Kilian Jornet, ci sta pensando, no, alla maratona? Ecco, è proprio questo che amplifica ancora di più un po' il mio rammarico, perché io credo che Kilian, vabbè, adesso sta dimostrando di andare molto molto forte, di essere molto cresciuto in piano, e credo che performerà assolutamente molto bene in questa disciplina. Quindi ecco, il fatto che, non perché lui vale sicuramente molto di più di me, però il fatto che io non abbia potuto quantomeno affrontare una maratona quando stavo bene, sì, ecco, lascia ancora un po' di più rammarico, vedendo che ora tanti ragazzi che fanno questa specialità della corsa in montagna invece lo possono fare, lo riescono a fare. Quando è che hai sentito che eri al massimo della forma nella tua carriera? Beh, sicuramente quando ho vinto il mondiale nel 2007, quando ho vinto il mio ultimo mondiale di corsa in montagna in Svizzera, ad Obronaz. Io credo che lì, per una questione proprio di concomitanza e di situazioni, sia arrivato proprio a settembre, in quel settembre, al mio top della forma in tutta la mia carriera, sì. Ci stava lì la maratona, quindi? Beh, sicuramente ci sarebbe potuto stare, sì. E hai adesso un sogno, qualcosa da realizzare, voglio dire? Realizzare qualcosa d'altro? Beh, allora, devo dire che sportivamente parlando mi sono tolto molte molte soddisfazioni, e adesso vivo proprio anche per mancanza di quelle sensazioni, comunque anche di quella voglia di voler essere performante a livello assoluto, anche perché onestamente non credo più di arrivare ad altissimi livelli come magari lo era 10 anni fa o poco meno. Debba comunque accontentarmi di qualche cosa di meno, ma sono comunque degli obiettivi un pochino meno ambiziosi rispetto a vincere un titolo mondiale, ma comunque sempre nel mio ideale, molto importanti. Per esempio quello di salire una cima, e questo è quello di cui si parla molto nel libro, lo Dio abita all'ultimo piano, è un po' il concetto di questo raggiungimento del Monte Bianco in tempo record, che ha segnato un po' anche questo mio sogno da ragazzino, che si avverava, appunto quello di poter fare questa esperienza da Courmayeur alla vetta e ritorno nel minor tempo possibile. Sì. Diciamo che questo voler raggiungere le cime in un tempo più breve possibile, segnare quindi un FKT piuttosto che cercare di fare del mio meglio in una specialità che è appunto lo skyrunning, anche questo tipo di questa variante così anche individuale di voler fare un'esperienza, è già un bell'obiettivo da cui sto appunto puntando da alcune stagioni. Io ricordo che non si è fatto mancare nulla, mi ricordo anche delle salite sui grattacieli, no? L'Empire State Building, sul Pirellone. proprio ho fatto gare totalmente diverse. Non rinnego nulla, ma ecco, a volte magari ho disperso un po' di energia in giro per questa grande passione che ho. E chi è il tuo erede sportivo, insomma, di specialità, secondo te? Bah, no, eredi sportivi ce n'è di molti meno. Voglio dire, io credo che ce ne siano moltissimi che stanno non seguendo le mie orme, ma facendo la propria strada, e anche a livello italiano abbiamo dei validissimi atleti che sono già anche molto meglio di me, quindi assolutamente non mi considero un precursore che possa essere emulato, almeno questo è un po' la mia sensazione. Infatti tu prima parlavi di fieno, di accudire gli animali, mi viene in mente un po' Davide Magnini, no? Anche lui giovanissimo, sta facendo molto bene. Sì, però lui non ha gli animali e non ha il pieno. Però l'ho visto in qualche immagine, diciamo. Probabilmente no. Fa anche altre specialità, però insomma. Sì. Molto, molto valido, molto forte, ma soprattutto con una concentrazione che è superiore alla mia, cioè una volontà di raggiungere l'obiettivo che è molto diversa da quella che avevo io. Diciamo che la mia è sempre stata un po' una maniera scanzonata di vivere lo sport e non così professionista come quella di qualcun altro, ecco, questo sì. E in chiusura, qual è la gara che hai nel cuore? Beh, allora, ne ho alcune, forse, però se devo scegliere, quella che mi ha dato anche grandissimo spessore anche per averla vinta è la Sierra Zinal, che è una delle gare per eccellenza del panorama della corsa in montagna. Ha tantissime edizioni, quindi una gara storica. L'hai vinta tre volte, se non ricordo. L'ho vinta tre volte, sì, ed è una gara che, voglio dire, quando la vinci capisci di essere un po' diventato uno dei migliori in quella specialità, ecco, quello sì. E invece, questa è l'ultima domanda, diciamo, che rapporto hai e che rapporto avevi con la fatica? Ma ho un rapporto di amore e odio come tanti, ma credo che soprattutto nei momenti in cui ero molto in forma l'abbia molto molto gestito bene, quindi era quasi molto di più il fatto dell'amore che quello dell'odio, ecco, questo senz'altro. Adesso invece lo vivo un po' diversamente, quando arrivo sulla soglia cerco di magari dare un po' meno invece che dare qualcosa di più come facevo un tempo. Allora, Dio abita all'ultimo piano, lo skyrunning secondo Marco De Gasperi, scritto da Roberta Orsenigo ed edito da Gribaudo. Grazie a Marco De Gasperi, a presto. Grazie a tutti e grazie di avermi ospitato. E grazie a Pietro Lacorte regia, noi anche per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domenica prossima sempre alle 6.30, alle 16.15, poi quando volete ci trovate in podcast. Buona giornata. Buona giornata. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.